Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. C'è un'idea che aleggia da anni a Milano, portata avanti da comitati spontanei di cittadini, che da qualche mese ha un nome potente, proposto dall'architetto Stefano Boeri: Fiume Verde. Qualcosa che ricorda la High Line di New York, la tratta ferroviaria sopraelevata che la Grande Mela ha trasformato in un parco lineare di grande successo, ma che nel caso di Milano potrebbe, direi, assumere dimensioni, anche un ruolo per la città decisamente più rilevante. L'occasione di dare concretezza a questa idea da tempo appunto vagheggiata è offerta dal processo di dismissione dei vecchi scali ferroviari di proprietà della rete Ferrovie Italiane, e ne parliamo proprio con Stefano Boeri, architetto che non ha bisogno di presentazioni ma che vale la pena di ricordare, almeno per i non milanesi. Ha un particolare feeling o attenzione insomma per il verde, come testimonia anche il bosco verticale da lui progettato, che sono due grandi edifici residenziali di 80 e 110 metri che ospitano 700 alberi e oltre 1000 piante più piccole su quasi 9000 metri quadrati di balconi e terrazzi, che è diventato uno dei landmark del capoluogo lombardo. Benvenuto Stefano Boeri. Grazie, buonasera a tutti. Senta, allora, intanto ci descriva subito questo progetto, ci aiuti proprio a visualizzarlo, questo Fiume Verde. Ma immaginiamoci una serie di parchi, 7 parchi o di giardini collegati tra di loro da un corridoio verde che parte dal nord di Milano, anzi meglio dal nord-ovest di Milano, dalla zona di Expo, poi entra nella città attraverso la zona della Bovisa, si allarga in prossimità degli scali merci abbandonati. Sono questi 7 parchi che verrebbero fuori, no? Sugli scali merci sostanzialmente. Sono 7 scali merci, diciamo, sì, dismessi, in via di dismissione. Farini, Greco, Lambrate, Rogoredo, Porta Romana, Porta Genova, per chi è milanese, e attraversa tutta la città in una, diciamo, parte della città che sta tra l'espansione dell'Ottocento e le fine del Novecento e i quartieri della prima periferia. Una volta, ma che adesso non è più, certo, una cintura esterna, adesso è diventato un anello interno. Un anello interno, quindi si avrebbe proprio la forma di un anello che gira intorno alla parte centrale di Milano, tenendosi fra il centro-centro e il centro-meno-centro, potremmo dirla così. Sì. E questi 7 scali sono proprio collegati da una cintura verde ancora che scorre lungo i binari, no? Sì, che collega. Molti dei binari in seguito alla dismissione dei scali merci sono anch'essi in corso di dismissione, sono anzi già parte abbandonati. In ogni caso, attorno ai binari, come sappiamo, ci sono delle fasce di protezione, e quindi il progetto prevede di rinaturalizzare o intervenire con un verde, come dire, mirato su tutto il sistema, sia dei binari dismessi che di quelli attivi. Perfetto. Ecco, senta, abbiamo detto come sarebbe il parco. Vediamo come pensate che si dovrebbe progettare nei dintorni del parco, quasi di conseguenza, perché avete le idee chiare anche su questo. È prevista naturalmente una possibilità edificatoria con un indice dello 0,65, e quello che noi abbiamo proposto è però che si dia il ruolo di protagonista al verde, al parco, alle radure naturali, agli orti urbani, all'oasi, cioè che si crei davvero un sistema unico, continuo, ad anello, che nessuna città oggi ha in queste dimensioni. E questo sarebbe una formidabile regalo per il futuro di Milano, non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista produttivo e paesaggistico, certo. E naturalmente sui bordi va costruito, si costruiranno residenze sociali, residenze per studenti, spazi culturali, spazi commerciali, anche residenze libere, perché la cosa interessante di questo sistema di scali merci è che in qualche modo tocca tutti i quartieri più anche difficili, più okay, sofferenti. Certo, proprio perché c'hanno lì vicino delle zone sostanzialmente abbandonate, no? Esattamente. In fondo non si tratta solo di intervenire. Di piantare piante, certo. No, e neanche forse l'esempio della line che lei faceva è molto riduttivo, molto opportuno. Però. No, è opportuno com'è, perché è esattamente quello che si vuole fare, ma come dimensione. Io penso più a Central Park, cioè penso più, certo, a quando nel 1860 New York decide, invece che proseguire a costruire con una griglia fittissima di edifici, di realizzare un immenso parco alla scala dell'isola di Manhattan, e quella cosa lì ha cambiato il volto, la storia, la natura. Ecco, e voi in questo senso proponete proprio qualcosa di simile, cioè dite facciamo tanto verde e costruiamo sui bordi edifici anche alti, che essendo invece tutti vicini al verde hanno anche molto valore sostanzialmente. Assolutamente, cioè non ha senso fare un 50% di verde, si può arrivare tranquillamente al 70-80% di verde. Questo permette di avere davvero un sistema di verde continuo, e sui bordi si costruiscono funzioni che hanno un'utilità per il quartiere, cioè si costruisce sui bordi a contatto con la città, ma si lascia, ripeto, non meno dell'80% della superficie a verde. Senta Boeri, ci sono ragioni per cui un'opportunità del genere potrebbe non ripetersi mai sostanzialmente a Milano, ricordiamolo. Ma io sono certo che non si ripeta mai, perché avere un unico proprietario, peraltro con una storia pubblica, da ente pubblico, che ha più di 1.300.000 metri quadri di aree disponibili, che attraversano tutto il corpo della città, questa è una cosa unica. È un'opportunità che va presa al volo, straordinaria. E speriamo di farlo. Va bene, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Stefano Boeri per essere rimasto con noi. Vi saluto, vi ricordo che ci potete scrivere a smartcity@radio24.it, che potete seguirci anche su Facebook, dove mi trovate col mio nome Maurizio Melis, o anche sotto Smart Melis. A voi tutti buona serata.